Siamo arrivati alla fine, dove abbiamo parlato di storia accaduta, di movimenti inclusi, come emozioni decise ma precise. E così la gente è inclusa in questo CD, raffigurato da persone con una giusta capacità, con delle canzoni giuste ma non prese dal sopravvento, perché nel mondo c'è molto caos. Basta un po' di silenzio per raggiungere la nostra libertà di parola, rinchiusa nelle vostre espressioni e nei concetti diversi, perché non saremo come voi, avete capito? Basta un po' di silenzio. Il silenzio è quello che ti sta a fianco, non li parlare, non lo stare a guardare. Se da lui puoi soltanto sentire, non lo stare a capire. Perché le sue gesta sono movimenti confusi, abbinanti come le labbra. Parlate continuamente, non limitare, perché nuovamente ti ritroverai con dei pensieri ignari. E non sapendo cosa fare, conviene camminare su due piedi dove ti trascorrono, su di uno il caretto. Perché nel momento non c'è la fretta, basta soltanto la pazienza. Così con lei non ti sentiresti sicuro, ma non così duro, perché sorvoli come una piuma decisamente leggera, che nel cuore si gela come l'acqua che viene spenta da fuoco. Questa è la confusione ignara, indecisa e imprecisa, come la vostra mentalità confusa, rinchiusa in un cassetto mezzo aperto. Dalle tue idee non le perdere come si deve, lasciale stare sulle strade insicure ma pure di negatività, ristrette come la nostra libertà esistente in questa comunità. E al suo interno ci sono molte facce inaudite e mal ridotte. Voi che avete le facce sporche non assomigliate a nessuno, perché fra di voi vi chiederete chi è il qualcuno. È l'unico spioncino che dà il sospiro del silenzio, caro amico, è l'unico motivo che in questa vita io vivo, di stare in silenzio, che non si diffonderà nell'immenso, nel mondo dell'incapacità, perché nel nostro pensiero è rinchiuso come un'immensa tranquillità, non la prende con tanta facilità, su di questa grande dimensione, perché la gente la vedi come un copione. Stai parlando del silenzio, così io ti seguo, e in questo silenzio io mi dileguo, come dici, nel buio, come in una bottiglia, una particella di sodio, ma arrivo all'improvviso nel silenzio, tipo fantasma, non fatto di carne, ma di plasma, e scoppia il mio sisma su di un territorio, sono vivo e per adesso non muoio, resto nascosto, perso tra la boscaglia, e silenziosamente mi muovo tra la marmaglia, ma non da solo. Su sto beat in collaborazione volo con Second, Petro, Ignazio MC. Saluto anche il producer FG.